La vista e l'udito sono tra i doni più grandi che l'essere umano abbia avuto. Esistere senza vedere la luce, i colori, ciò che ci circonda e senza poter udire i suoni e le parole a noi rivolte da altri esseri umani è una sofferenza unica, soprattutto per chi perde vista e udito dopo averli posseduti. Chi nasce senza vedere e udire non può comprendere di quanto e di cosa sia privato, come non può comprendere un neonato le gioie e i dolori della vita se muore poco dopo la nascita. Solo chi vede e ode può identificarsi nel dolore di chi viene privato improvvisamente o lentamente di tali doni. La parola di Dio fa spesso riferimento ai doni della vista e dell'udito dell'uomo, non solo per esprimere o mettere in enfasi alcune sue capacità, meno tra l'altro in comune con gli animali, meno, ma anche per metterli in relazione al messaggio d'amore del Dio Trino composto di fatti e di parole. Messaggio riassunto nella predicazione dell'Evangelo, o buona notizia, di Gesù Cristo. Come ha fatto notare uno studioso, a molti sfugge che il termine Evangelo, cioè buona novella, non è una parola inventata dai cristiani, ma un termine già usato nel mondo greco-romano prima che fossero scritti i Vangeli canonici. Per il fatto che il mondo antico non aveva un'economia di libero mercato, molto spesso ciò che oliava gli ingranaggi della società e del commercio era la generosità delle persone di alto rango. Gli imperatori, in particolare, erano esaltati per la loro magnanimità e per i loro trionfi. Il Vangelo era dunque la buona novella di tutto ciò che l'imperatore o qualche altra persona potente faceva a beneficio del popolo. Per questa ragione i benefattori per lo più non erano esaltati per i loro grandi pronunciamenti filosofici o per la loro saggezza, ma per i loro atti. Quando i primi cristiani presero in prestito il termine Vangelo, avevano perciò in mente una buona notizia rappresentata dalle cose che Gesù aveva fatto, oltre ovviamente alla parte del suo insegnamento. Questo spiega la ragione per cui il Dio Trino delle Scritture, rivelatosi agli ebrei e ai cristiani, metta molta enfasi sul fatto di vedere e di comprendere le opere che egli ha compiuto e che tuttora compie. Purtroppo, vedere e comprendere le opere di Dio non è una prerogativa di tutti. Gesù nei suoi insegnamenti lo fa notare molte volte a chi lo ascolta. Ne troviamo un esempio nella parabola del seminatore. Dopo che Gesù ebbe raccontato questa parabola, i suoi discepoli gli fecero una domanda che dimostra che l'insegnamento tramite delle parabole fosse un'abitudine di Gesù. Così leggiamo nel Vangelo di Matteo. Allora i discepoli accostatisi gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Ed egli rispondendo disse loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano, e udendo non odano né comprendano». Così si adempie in loro la profezia di Isaia, che dice: «Voi udirete, ma non intenderete, guarderete, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile, essi sono diventati duri d'orecchi, e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore, e non si convertano, e io li guarisca. Ma beati i vostri occhi perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. Perché in verità vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono». Matteo 13.1017. La lunga risposta di Gesù mette in evidenza alcune verità che sono in netto contrasto con certe opinioni comuni. Si pensa che Gesù parlasse in parabole con lo scopo di far comprendere alle persone più semplici grandi verità, ma Gesù ha risposto, mettendo subito in evidenza di parlare in parabole con l'intenzione di comunicare solo con alcuni, e cioè a coloro che lo cercavano e lo seguivano. E questo continua Gesù perché chi cerca la verità comprenderà sempre più, mentre chi non la cerca comprenderà sempre meno. Dunque, non è vero che Dio abbia scelto solo alcuni per attirarli a sé, essendo così si spiegherebbe perché alcuni sono attratti verso Dio e altri no. Ma è l'uomo che, con la sua disponibilità e il suo ardente desiderio di conoscere Dio e la verità, si mette in un atteggiamento di ricezione e più riceve. Più cresce in conoscenza e più cresce in conoscenza, più è in grado di ricevere. Perciò se, come disse Gesù, ad alcuni non è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, non è per il volere di Dio. Anche perché la volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, 1 Timoteo 2.4, ma per un atteggiamento di rifiuto da parte dell'uomo. L'espressione chi non ha e gli sarà tolto quello che ha, non indica che sarà tolto a chi non ha avuto, ma a chi avendo le capacità non le ha fatte fruttare, perdendo di conseguenza anche il poco di cui era in possesso. Il punto centrale della risposta di Gesù in merito al suo parlare in parabole fu messo in rilievo da lui stesso quando disse: «Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non odano né comprendano». Gesù inoltre disse espressamente che stava citando una profezia del profeta Isaia. Così si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: «Voi udirete ma non intenderete. Guarderete ma non vedrete». Dunque un altro grande scopo per il quale Gesù parlava in parabole era quello di impedire agli ascoltatori di vedere e di comprendere. A prima vista questa sembra una delle più grandi contraddizioni dell'opera d'amore di Cristo, il quale era venuto sulla terra, assumendo un corpo per testimoniare e rivelare il Dio Trino e per testimoniare e far comprendere all'uomo che ha bisogno di una salvezza eterna ottenuta per grazia mediante un atto di fede salvifica da adulto in Cristo. Eppure, in questa occasione sembra che Gesù dica di parlare in parabole per nascondere il messaggio di Dio composto di un'opera e di un annuncio. In effetti è vero, ma se il messaggio non è stato né visto né udito, questo non è colpa di Dio ma degli uditori. Perché le persone guardavano e udivano il messaggio di Dio ma non lo vedevano, né lo comprendevano. Eppure, la maggioranza delle persone che guardavano Gesù e sentivano i suoi discorsi erano soddisfatti, felici, e alcuni di essi erano anche guariti, ma si limitavano a considerare la loro esperienza un evento straordinariamente bello e nulla di più. Chi guardava Gesù non vedeva in lui il Figlio di Dio e Salvatore del mondo. Chi ascoltava Gesù non comprendeva che stava parlando Dio tramite Cristo Gesù. Ecco dunque lo scopo della parabola. Questo racconto allegorico può essere compreso solo da chi già si è incamminato sulla strada della verità o da chi è già entrato nel regno di Dio, mentre chi non è abituato al messaggio del regno dei cieli non solo non comprende, ma spesso si scaglia anche contro. Ho presente ancora con profondo dolore e orrore un episodio nella Seconda Guerra Mondiale nel quale un uomo è stato picchiato brutalmente fino a sfigurargli la faccia perché rivelasse certe lettere e numeri sconosciuti ai suoi aguzzini. Queste lettere e numeri non erano altro che citazioni bibliche che gli aguzzini interpretavano come messaggi segreti rivolti al nemico. E che dire di quel predicatore messo in prigione solo perché stava predicando sulla pesca miracolosa di Pietro dopo la resurrezione di Gesù, il quale disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Giovanni 21.3. Le stupide guardie nel sentire la parola destro, pensando che parlasse di politica, lo imprigionarono. L'ignoranza unita all'odio è peggio della siccità. Quanta gente guarda e non vede, quanti sono coloro che sentono ma non comprendono. Lo possono testimoniare di persona tutti coloro che sono diventati figli di Dio. Infatti anche per me la parola di Dio, l'Evangelo, Dio e Gesù Cristo erano soltanto parole che udivo senza alcun significato. E tutto ciò che mi circondava era semplice natura morta. Ma quando piacque a Dio di rivelarmi suo Figlio e che la creazione era il frutto dell'opera sua, allora il suono inarticolato della parola mi fece comprendere. E esse iniziarono ad avere un significato, allora in tutto ciò che guardavo vedevo l'opera del Creatore. È molto difficile descrivere questa esperienza, conosco però un episodio forse paragonabile a essa, e che è in grado di descrivere il passaggio dal guardare al vedere, dal sentire al comprendere. Si tratta della storia straordinaria di Helen Keller. Helen Keller era una bambina normale fino all'età di 19 mesi quando, in seguito a una febbre cerebrale che la colpì, divenne cieca. sorda e muta. In questa drammatica situazione venne affidata ad una maestra di nome Anne. Sullivan e la bambina, benché di natura dolce, cedeva a collere furiose. I suoi vani tentativi di farsi capire erano seguiti da scoppi selvaggi di furore. Si gettava sull'erba e si abbandonava a invincibili eccessi di grida, ma Miss Sullivan continuava con ostinatezza a insegnare nuove parole con il linguaggio manuale. Per Helen Keller le parole che imparava erano soltanto parole fino al giorno nel quale Miss Sullivan condusse la bambina alla pompa dell'acqua che aveva messo in funzione e, mentre l'acqua traboccava sulla mano destra della bambina, Miss Sullivan batté sulla sinistra la parola acqua. La parola, giungendole contemporaneamente alla sensazione dell'acqua fresca che le scorreva sulla mano, sorprese la bambina facendola trasecolare. Una nuova luce illuminò il suo viso. E, come testimoniò più tardi Helen Keller, il mistero della lingua mi fu rivelato, capii. In quell'istante che acqua significava la cosa fresca e meravigliosa che mi scorreva sulla mano. Quella parola viva svegliò la mia anima, le diede luce, speranza, gioia, mi resa libera. Dopo quell'esperienza, Helen Keller non solo sentiva le parole tramite il metodo Braille, ma ora le comprendeva. Non solo guardava le cose tramite la mente, ma ora le vedeva. Tutto aveva senso. Tutto aveva significato. Solo Dio sa quanto mi commuove la storia di Helen Keller. Ma niente è paragonabile all'esperienza di chi, come me, passa dalle tenebre spirituali alla luce dell'Evangelo. Dal guardare, al vedere l'opera di Dio, dal sentire delle parole, al comprenderle. Helen Keller era profondamente religiosa e, come ebbe a dire, attendeva la vita futura dove sarebbe stata libera dai ceppi e tutte le limitazioni fisiche, ed io, con un anelito non inferiore al suo, attendo con gioia di andare, finalmente, alla presenza di Cristo per vedere e comprendere appieno quanto sono stato amato. Febbraio 2007. Ellero,